Salva Danaio. Tra un mesetto deve passare un altro controllo medico, sa? Un altro? L'ho fatto 15 giorni fa il controllo medico. Abbi pazienza, deve ammettere che il suo caso è un po' singolare, un po' strano. Viaggiando con un camion. No, parcheggiato, col mio camioncino. Tirai il freno a mano, con questa mano qua, quando lo potevo tirare il freno a mano. E parcheggiai. Ero lì tranquillo, quasi per addormentarmi. Pum! Ma arriva una botta di dietro, ma tremenda. Ho sbattuto la testa nel vetro davanti e sono svenuto. E mi sono svegliato così. Anzi, mi è andata bene. C'è gente che rimane cieca, sorda, paralizzata. Hai capito? Mi dovreste dare di più. Mi sono rovinato, anzi. Non posso fare più niente, né mangiare, leggere, scrivere. Mi dovreste dare il doppio, il triplo, il quadruplo, perché siete voi assicurazioni. Va bene, va bene. Volevo solo dirle che nel mio mestiere incontro un sacco di imbroglioni. Non è il suo caso, per carità. E allora avete sentito, questo era il nostro Roberto Benigni in Johnny Stecchino. Benvenuti a Salva Danaio, benvenuti da Valentina Furlanetto e dai nostri ospiti a questa puntata nella quale parleremo, come abbiamo anticipato durante il GR di RC Auto, sempre più cara, arriva il contratto base. Di cosa si tratta? Allora, l'Italia si conferma purtroppo al primo posto tra i paesi europei per i prezzi delle polizze RC Auto. Le tariffe sono le più care e quelle che crescono più velocemente in tutta Europa. Il bel paese continua a distinguersi anche per l'elevata frequenza dei sinistri e i costi dei risarcimenti. Da maggio, però, le compagnie assicurative avranno l'obbligo di offrire al consumatore un contratto base che, rispettando alcuni vincoli imposti per legge, dovrebbe aumentare la trasparenza dei costi, dando al consumatore la possibilità di confrontare facilmente le numerose offerte sul mercato, rendendo la sua scelta più consapevole. Nel frattempo, secondo i dati della Polizia Stradale, quasi 3 milioni e mezzo di italiani circolano in auto senza copertura assicurativa, esponendosi così a rischi da non sottovalutare anche sul piano economico. Oggi facciamo il punto della situazione, raccogliendo le vostre domande, la testimonianza degli ascoltatori, vostra quindi, e anche le risposte degli esperti. Chiamateci all'800 24 0024 oppure via sms al 349 238 6666, via mail salvadanaio@radio24.it, oppure tutti gli altri strumenti su Facebook, la pagina di Salvadanaio, o su Twitter @salvadanaio24, l'hashtag è RC Auto. Quanto pagate di RC Auto? Vi è capitato di guidare sprovvisti di assicurazione? Potete farci queste domande, ma prima di tutto questo parliamo di mercati. Mercati, perché ieri l'avrete visto, insomma, a Wall Street c'è stato questo rally che ha portato l'indice Dow Jones a superare i 14.165 punti, ai massimi. Quindi gli investitori scommettono che domani le banche centrali di Europa, Giappone e Inghilterra continueranno a portare avanti una politica monetaria di sostegno all'economia, visto che la situazione è tutt'altro che rosea, soprattutto sul vecchio continente. Bene è andata stamattina anche Tokyo, con un rialzo superiore al 2,5%. Questa mattina a Francoforte ha aggiornato i massimi dal 2008, in questo momento guadagna lo 0,9%, bene anche Londra, più 0,16%, intorno alla parità Parigi, che è stata positiva tutta la mattinata, più 0,09%. Milano invece ha girato in negativo, meno 0,25% il FTSE MIB, anche se lo spread è in calo a 319 punti. Fra i titoli segnaliamo innanzitutto il rialzo di Finmeccanica, che guadagna 2 punti percentuali sugli scudi a Piazza Affari, quindi nell'attesa di novità sulla cessione di Avio Spazio. Bene anche Enel Green Power, più 1,15%, Telecom Italia più 0,79%, e poi Mediaset più 0,79%. Fra i negativi, Fiat Industrial meno 0,95%, Ansaldo meno 0,47%, Buzzi Unice ma meno 0,43%. L'euro sul dollaro 1,30,35. Questo per darvi un po' di dati, ma abbiamo anche un ospite con noi, Roberto Brasca, vicepresidente di A come A SGR, gestore. Quindi buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, come si spiegano questi mercati? Adesso dicevamo Piazza Affari ha girato in negativo, però ieri la borsa di Milano ha chiuso in positivo, nonostante le debolezze strutturali un po' della nostra economia e anche l'incertezza dal punto di vista politico, probabilmente sulla scia dell'Europa, immagino. Come si fanno a spiegare questi effetti positivi in borsa ieri di Wall Street e dell'Europa? Intanto per quanto riguarda l'Italia c'è stato un po' un movimento di reazione ai ribassi che erano seguiti alla tornata elettorale che aveva lasciato il mercato nell'incertezza e come sappiamo il mercato rifiuta l'incertezza, cioè dove c'è incertezza c'è pericolo e quindi le valutazioni scendono perché diventano più rischiose. Dall'altra parte una volta che i prezzi hanno già scontato tante notizie negative e che il contesto invece si muove in direzione opposta, ha senso che ci sia un recupero di valutazione perché gli operatori dicono beh, consolidiamo il fatto di aver avuto delle grosse discese, ci riportiamo in posizione più neutrale, no? Magari qualcuno aveva venduto allo scoperto oppure qualcuno ha alleggerito i portafogli e poi cessate queste vendite c'è il classico sollievo, no? Che è dovuto a una situazione che diventa più normale. Dall'altra parte il mercato americano si è reso conto che questi 85 miliardi di sequester non hanno un impatto così violento sull'economia, hanno invece molto impatto, continuano ad avere impatto gli 85 miliardi di dollari che vengono immessi ogni mese dalla Fed in termini di acquisti di obbligazioni di Stato americane, quindi questo porta molta liquidità sul mercato e logicamente questa liquidità deve trovare degli impieghi. Quindi mediamente il livello dei prezzi si alza. Cosa dovrebbe fare una persona che ha dei risparmi in borsa in questo momento? Ovviamente voi guardate la situazione nell'arco, mi spiegava anche prima, di un ordine temporale un po' più lungo, insomma, che una giornata o un paio di giornate, sì. No? Sì, ma il guardare i prezzi di borsa giorno dopo giorno spesso è fuorviante, perché non si riesce a distinguere non si riescono a distinguere le notizie importanti dal rumore di fondo che c'è sempre, quindi oggi c'è una brutta notizia, non so, ieri per esempio c'erano delle ammortamenti più alti del previsto su Banco Popolare, era l'unica banca che scendeva, però insomma sono cose che oggi succede al Banco Popolare, domani succede a un'altra banca, ma che non modificano il quadro d'insieme. Il quadro d'insieme oggi in Europa è un percorso segnato dal punto di vista economico che non necessariamente è stato soddisfacente, nel senso che molti di noi ritengono che le misure di austerità un po' forzate dai tedeschi sui paesi periferici non abbiano contribuito a risolvere i problemi, ma in qualche caso li abbiano riacutizzati, ma quello che interessa veramente è che in Europa c'è il riconoscimento di una necessità di cambiamento, quindi questa necessità di riforme di cui parliamo tanto in Italia, che giustamente è un problema assai sentito, è un problema assai avvertito in tutta Europa e quindi l'Europa soltanto attraverso delle riforme, se continuerà il processo di riforme come quelle che ci sono allo studio, oltre al fiscal compact c'è anche tutta la parte che guarda alla vigilanza bancaria che è estremamente importante, ha un'idea di solidarietà tra i fondi, tra gli stati europei che diventano più uniti. Ecco, se l'Europa farà corpo unico, ovviamente è un soggetto economico estremamente importante che non ha oggi valorizzate tutte le sue potenzialità. Guardando all'Europa, appunto, Francoforte ho visto aggiornato oggi i massimi dal 2008, un po' tutte positive le borse in Europa. Stamattina era positiva anche Milano, invece adesso porta il segno meno, quindi meno 0,20 in questo istante. Anche qui è Francoforte che trascina un po' gli altri mercati. Ma sì, in questo caso diciamo che dipende un po' dall'andamento dei titoli che compongono l'indice. È fisiologico anche il fatto che oggi Milano faccia un po' meno degli altri, visto che ieri aveva fatto più degli altri. Già il mercato americano si era mosso molto bene quando le borse europee erano in chiusura ieri pomeriggio, e quindi diciamo che il recupero delle borse europee era andato un po' al traino della buona apertura del mercato americano. Oggi le borse europee sono più o meno in linea, quando un mercato fa meno 0,18 e l'altro fa più 0,18, sostanzialmente non è un po' casuale secondo il movimento dei titoli dell'indice. Va meglio la Germania perché molti titoli dell'indice tedesco si stanno muovendo bene oggi, e forse anche perché in generale il perdurare di condizioni finanziarie più favorevoli alla Germania in termini di tassi di interesse in generale effettivamente ha fatto uscire dei risultati più buoni sulle società tedesche. Grazie Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea SGR, che ci ha un po' aiutato a capire quello che sta accadendo sui mercati in questi giorni. Adesso torniamo al nostro tema di oggi, i prezzi dell'RC Auto, con i nostri ospiti che saluto. Innanzitutto Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, che è qui con me. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Segugio.it è una piattaforma online di comparazione di tariffe molto utile per i consumatori. Poi Claudio De Mozzi, presidente nazionale di SNA, il sindacato nazionale agenti di assicurazione. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Noi andiamo a vedere tutto in dettaglio perché c'è stato un lavoro in redazione di Marco Lombardo, che ringrazio, e quindi sentiamo i dettagli nella nostra scheda. I prezzi dell'RC Auto sono un'anomalia tutta italiana, chiaro sintomo del malfunzionamento di un intero sistema. Il rincaro della polizza è inarrestabile ed è sembrato inutile in tutti questi anni il rincorrersi degli appelli di tutti gli attori in gioco. L'autorità di vigilanza ISVAP, i consumatori, l'associazione degli agenti e quella delle compagnie, ognuna con un'analisi diversa e col dito puntato su altrettante cause. La scarsa concorrenza, l'abbandono del Sud Italia da parte delle compagnie, le troppe frodi assicurative. Un vero e proprio circolo vizioso. Secondo una recente indagine dell'antitrust, il premio medio nel bel paese è più del doppio di quello francese o portoghese, supera quello tedesco dell'80% e quello olandese del 70%. Tra il 2006 e il 2010 la crescita dei prezzi in Italia è stata il doppio di quella della zona euro e il triplo di quella francese. Rispetto ai cugini d'Oltralpe abbiamo anche quasi il doppio dei sinistri, con un costo medio superiore del 13%. Si precipita all'ultimo posto della classifica, invece, quando si tratta di contare le frodi accertate. Gli stessi francesi e gli abitanti del Regno Unito, ad esempio, mentirebbero sulle conseguenze di un incidente stradale 4 volte tanto rispetto agli italiani. Un dato che lascia quantomeno perplessi. L'indagine mostra un'estrema variabilità dei premi richiesti. Le polizze più convenienti, insomma, ci sono. Il problema è trovarle. Per rendere più facile e trasparente il confronto tra le tariffe, è stata predisposta, a partire dalla legge crescita approvata a dicembre, l'offerta di un contratto base. Tra i requisiti ci sono un massimale fissato per legge, nessuna franchigia, la guida libera, ovvero copertura valida indipendentemente da chi guida il veicolo. Il prodotto sarà obbligatorio per tutte le compagnie a partire da maggio e, secondo il ministro Passera, con questo modello di confrontabilità l'Italia potrà fare dei grossi passi avanti, portandosi in linea con gli altri paesi europei. Claudio De Mozzi, presidente del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. Abbiamo detto correttamente, sono queste le cause, soprattutto a maggio ci potrà cambiare qualcosa? Beh, allora, grazie innanzitutto dell'opportunità. Beh, noi sosteniamo da anni come SNA, Sindacato Nazionale degli Agenti Assicurativi, che uno dei problemi fondamentali del mercato nazionale, ma non solo nell'RCA, in tutto il settore assicurativo, è sostanzialmente un'ingessatura, un'iperconcentrazione del mercato nelle mani di pochi mega gruppi finanziari assicurativi e soprattutto il ridimensionamento nel numero delle agenzie assicurative sul territorio. Le compagnie, secondo noi, dovrebbero incrementare il numero delle agenzie presenti sul territorio e quindi contribuire ad aumentare la concorrenza anche nel settore della RC Auto, mentre negli ultimi anni le grandi compagnie hanno ridimensionato il numero delle agenzie sul territorio e, come l'antitrust ha puntualmente rilevato già 2 anni fa, in ottobre 2011, dichiarandolo chiaramente al Parlamento, quando si ridimensiona il numero degli intermediari sul territorio, ovviamente si si raffredda la concorrenza. Raffreddare la concorrenza in un mercato ingessato e iperconcentrato significa necessariamente acconsentire ad un aumento delle tariffe anomalo. Ora, lo standard minimo è una battaglia storica del sindacato nazionale agenti. Da anni noi chiedevamo al Ministero, che purtroppo rimaneva insensibile, questo strumento per favorire la comparazione e il confronto competitivo. Quindi noi accogliamo con favore questo standard minimo, finalmente il Ministero si è reso conto della necessità di questo strumento che noi chiedevamo a gran voce da anni, anche se sullo standard minimo, se poi mi darà l'opportunità, qualche criticità noi l'abbiamo rilevata. Cioè, diciamolo subito, velocemente. Sì. Beh, e innanzitutto, guardi, lo standard minimo, per essere uno standard minimo, deve essere un minimo invalicabile, cioè non modificabile verso il basso della copertura minima garantita. E invece, purtroppo, come troppo spesso avviene nei provvedimenti legislativi, viene dichiarato uno standard minimo, come tale il consumatore, il cliente è indotto a ritenere che quella sia la copertura minima indispensabile che obbligatoriamente le imprese devono garantire, e invece alla parte 1, clausole limitative, articolo 19, troviamo prevista la possibilità per le imprese di prevedere ulteriori clausole di limitazione della copertura assicurativa in funzione di riduzioni del premio in maniera generica, cioè si lascia comunque una falla a questo impianto normativo che doveva costituire l'asticella minima invalicabile, in base alla quale ciascuna impresa potrà ancora inserire delle clausole limitative della copertura verso il basso. Questo contraddice un po' la finalità della norma e il titolo della norma. Se è uno standard minimo, non deve essere derogabile al ribasso, ma solo al rialzo attraverso clausole che estendano la portata della copertura. Eccoci qua, parliamo oggi di RC Auto con voi, con i nostri ospiti, con voi anche che state chiamando al telefono oppure state mandando degli sms, come Roberto da Bergamo che scrive: dopo 25 anni ho cambiato le due assicurazioni che avevo risparmiando almeno il 40%. Ben per lui, insomma, siamo molto contenti che probabilmente sia riuscito a trovare delle assicurazioni migliori. Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it, che è questa piattaforma online di comparazione tariffe. Dicevamo, cosa può far bene al consumatore? Il contratto base, dicevamo, ci sono anche altri temi che si possono mettere sul piatto, che possono aiutare a raffreddare un po' questi prezzi? Ma sono d'accordo con De Mozzi sul fatto che per smuovere questo mercato sia importante agire sulla concorrenza e probabilmente sull'asse distributivo, che è un asse importantissimo. Mi sembra in questo senso che i provvedimenti varati dal governo nel loro insieme siano efficaci. Penso all'abolizione del tacito rinnovo, penso alla collaborazione fra gli intermediari, e mi sembra che anche il contratto base, ancorché sono d'accordo anche qui con De Mozzi, non sia il contratto minimo, comunque quantomeno stabilisce delle regole di comparabilità dei prodotti che semplificheranno un po' la lettura da parte del consumatore e degli intermediari che lo devono assistere. Abbiamo alcuni ascoltatori in linea che hanno chiamato all'800 024 0024, a cui darei la parola. Matteo da Pavia, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie, allora, dica. Dunque, io ho una macchina aziendale, faccio rappresentante, quindi da circa 10 anni. Ho provato a fare delle simulazioni su computer, però le tariffe che mi danno sono delle tariffe veramente alte, cioè come se fossi un neopatentato. Quindi il fatto è che io passi da dipendente, per cui la macchina è aziendale, paga l'azienda l'assicurazione, a privato, è come se non riconoscessero i miei anni di patente precedenti. Cioè, ecco, lei è un'auto aziendale, giusto? Coperta, esatto, con un'assicurazione dell'azienda. Esatto. Se io facessi, io sono andato su internet per fare delle simulazioni per prendere per riscattare l'auto. Esatto, come se avessi un'auto mia personale, perché purtroppo la situazione lavorativa è un po' precaria, quindi dovrei prendermi la macchina. Quindi devo farmi la mia assicurazione privata. però mi fanno partire con dei massimali altissimi, come se io fossi un neopatentato, cioè come se non mi riconoscessero, certo, gli anni. Abbiamo capito. Senza incidente, senza niente. Ecco, grazie Matteo, grazie Matteo. Quindi oltre alla beffa del lavoro che va così così, per cui si deve prendere l'auto aziendale e assumere su se stesso l'assicurazione, ci potrebbe essere anche questo danno. Emanuele Anzaghi, cosa si può dire a questo ascoltatore, Matteo? Sì, in effetti la situazione è comprensibile, perché l'assicurazione è sull'auto e non è sulla patente del conducente. In questa fattispecie specifica credo sia possibile, se si dimostra il fatto che l'autovettura aziendale è stata guidata per un certo numero di anni da un solo conducente, sia possibile in qualche modo far ricondurre la classe di merito di quell'auto. Magari con una certificazione dell'azienda, qualcosa di questo, esatto, tipo. Esatto. Più di qualcuno sottolinea anche via SMS il fatto che non sia legata l'assicurazione alla patente, ma all'auto. Andrea da Rovigo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Qual è la sua domanda? Questo era più o meno l'intervento che volevo fare anch'io. Io pensavo al numero di targa, cioè di assicurare il numero di targa, ma anche assicurare la patente potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione che va anche ad incentivare o a smuovere un po' il mercato dell'auto, che in questi periodi è un po' stagnante. Cioè lei... avere due auto, oppure un'auto e un motociclo, doverli assicurare entrambi diventa impegnativo. Se invece l'assicurazione fosse o sulla targa o meglio ancora forse sulla patente, uno ha un'unica polizza e non può andare via con più mezzi contemporaneamente. Certo, collegato alla persona, quindi abbiamo capito. Grazie Andrea. Claudio De Mozzi. Ma allora guardi, innanzitutto volevo dire al primo radioascoltatore, sì, che è intervenuto, se mi permette. Beh, allora, sul mercato ci sono gli specialisti del settore dell'intermediazione assicurativa, si chiamano agenti di assicurazione, quindi pensare che il self-service per risolvere problematiche complesse nel settore delle assicurazioni sia facile è un'illusione che smonterei subito, per cui quel radioascoltatore, come tutti quelli che hanno delle particolari esigenze, dovrebbero rivolgersi ad un agente di fiducia e demandare a questi esperti professionisti del settore la soluzione di questi problemi. Vedrà che a tutti i problemi corrispondono altrettante soluzioni. Prima cosa. Seconda cosa, l'assicurazione sulla patente. Beh, attenzione, perché sarebbe un po' antisociale, cioè premierebbe chi con una patente dispone di 5-6 autovetture in casa e un po' penalizzerebbe chi invece ha un'unica autovettura e con il sistema attuale paga un premio assicurativo. E per cui è un po' alla rovescia di quello che forse le classi più bisognose si aspettano dalle soluzioni nel problema delle tariffe reci auto. Quindi è stato discusso tante volte, c'ha il pro assicurare la patente, certo, però non illudiamoci che possa essere una politica, diciamo, corretta dal punto di vista sociale, perché premierebbe chi con una patente dispone di più veicoli, quindi non certo delle fasce più meno abbienti della cittadinanza, insomma. Certo, ecco. Ha fatto bene a chiarire questo punto, che è senz'altro importante. Anzaghi voleva aggiungere qualcosa rispetto al self aiuto che uno cerca di avere da internet, immagino che fosse su questo. Certo, sì, mi sembra un'osservazione corretta, però è anche vero che la situazione italiana è particolare, se pensiamo ai comparatori, i comparatori sono broker di assicurazioni con personale dipendente che svolge anche attività di consulenza, quindi credo che questa dicotomia, diciamo, fra l'online e l'offline vada un po' superata. Sicuramente è importante rivolgersi a dei canali dove si trovano degli interlocutori competenti. Non tutti i canali internet sono uguali, alcuni dispongono ad esempio di un servizio di consulenza gratuito telefonico al quale rispondono intermediari dotati delle opportune competenti competenze. Anche che non abbiano un conflitto, insomma, di interesse. E no? Questo, diciamo, è tipico della figura del broker, altrimenti giustamente la gente sul territorio. Salvatore dalla provincia di Napoli, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Dalla provincia di Napoli, Salvatore, ma molto arrabbiato. Volevo sapere da qualcuno che mi dia una spiegazione logica e non mi faccia arrabbiare ancora di più. Perché io, con 36 anni di patente, mai sinistri, mai subiti sinistri, sono una persona integerrima, però sono nato e cresciuto nella provincia di Napoli, devo pagare 5-6 volte tanto la polizza che paga uno di Bolzano o di dove dirsi voglia. C'è una rabbia che mi viene ogni volta che mi arriva la polizza da pagare più di 1000 euro per un astilo. E ripeto, ho fatto qualche milione di chilometri in vita mia, mai fatto sinistri, perché io sono paragonato al truffatore, al classico che frega tutti. Cioè, se io sono uno stupido che se do un piccolo tamponamento da 100-200 euro pago cash per evitare di fare aumenti, e da poche centinaia di euro che pagavo fino a pochi anni fa, adesso 1200 euro per un astilo, una macchina che mi serve per lavorare. Grazie. E questo mi devono spiegare, perché non lo collegano al mio codice fiscale, visto che è come l'impronta digitale, come il DNA, che sono sempre io. Quindi collegarlo a quello che incasso da eventuali sinistri, a quello che faccio cacciare dall'assicurazione da sinistri, quando si vede che il risultato è sempre zero, perché non premiare me? E non sento dire da qualche pubblicità: il cinquantenne di Aosta paga 160 euro all'anno. Non... Salvatore, è caduta la linea, era talmente arrabbiato che la conversazione era arroventata. Comunque ha i suoi motivi per essere arrabbiato Salvatore, che vive nella provincia di Napoli, dove le polizze assicurative, magari anche se come Salvatore non ci sono stati sinistri, sono piuttosto alte per dei meccanismi che ben conosciamo, no Anzaghi? Sì, assolutamente, è una rabbia comprensibile. I prodotti auto tradizionali sono prodotti basati sulle statistiche. Le statistiche tengono conto sicuramente del profilo del conducente, del proprietario, ma tengono ahimè conto anche in maniera importante e nel caso di Napoli prevalente della variabile territoriale. Ci sono dei dati macro su quella provincia come su altre italiane che si discostano moltissimo da altre, quindi ecco che il consumatore, anche quello virtuoso, si trova con questo tipo di ottica penalizzato. E questa è proprio una beffa, perché insomma, virtuoso a Napoli viene anche penalizzato, però insomma queste sono le statistiche. È indiscutibile che la probabilità di incidentalità è più alta. È più alta, certo. C'è da dire che adesso assistiamo ad alcuni primi tentativi di cambiare. È un incentivo però a comportarsi male un pochino, no? Beh sì, immagino che possa generare un certo senso di rivalsa. Esistono però diciamo delle novità che si stanno cominciando ad affacciare. Penso che la scatola nera in certe aree geografiche possa essere utile, perché effettivamente ci porta da un piano statistico generale a proprio all'osservazione del comportamento specifico del consumatore. Ho visto altri esempi, altri esperimenti interessanti, per esempio di una compagnia che incrocia diciamo, i dati di tipicamente richiesti per una polizza assicurativa con una convenzione col comune attraverso la verifica del pagamento dei contributi per lo smaltimento dei rifiuti. Quindi si stanno cercando, mi sembra, di mettere a punto alcuni strumenti per andare meglio sul singolo individuo, però sono risposte ancora parziali. Certo, e io darei la linea a un altro ascoltatore, Antonio da Roma. Ci sono molti ascoltatori in attesa, quindi diamo spazio a loro. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Senta, la storia, io, anzi mia moglie, ha fatto un incidente perché mentre stava in fila qui a Roma, camminava a 3 all'ora immagino, ha tamponato quello che gli stava davanti e si sono fermati, hanno guardato il danno che non c'era e sono risaliti in macchina e hanno continuato. Dopo altri 30 metri il tizio si è fermato di nuovo e ha chiesto a mia moglie se poteva prendersi il numero di targa. Mia moglie ha detto sì, va bene, si prende il numero di targa. Sta di fatto che tempo 6 mesi ci è arrivata un'ingiunzione di un avvocato, non so chi, questo tizio voleva il danno e ci richiedeva 1200 euro di danno. E noi abbiamo fatto presente, ho fatto 3 raccomandate, una all'assicurazione, un'altra al perito della mia assicurazione, un'altra alla società Adusbef, roba del genere. Sì, una associazione dei consumatori, va bene. Dicendo che non c'era danno. Non e alla c'era fine, danno. Antonio? E qui... No, alla fine sai cosa è successo? Che io dopo questa cosa ho avuto un'ingiunzione, non so, da un giudice di pace, che io un certo mese di settembre di 2 anni fa dovevo andare a discutere questa causa e io ho rifatto di nuovo le raccomandate dicendo guardate ma non c'è danno e comunque dico l'avvocato della mia assicurazione mi tuteli perché io e l'assicurazione corretta. Alla fine cosa le ha detto velocemente che no, stiamo andando in viabilità un mese, ho chiamato l'assicurazione, avevano liquidato il danno, Quindi io sono stato penalizzato nel bonus, insomma, nella graduatoria, sì. E io ho richiesto alla mia assicurazione di mandarmi la documentazione che attestasse il danno. Mi è arrivata via email una foto della macchina ed era strusciata sul lato destro. Era ho una capito. Macchina strusciata Antonio. Sul lato destro quando io l'ho tamponata. Grazie, è un caso specifico, ne parliamo subito dopo la viabilità. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. In Italia quasi 3 milioni e mezzo di veicoli circolano ogni giorno senza copertura assicurativa. Lo comunica la Polizia Stradale, che con questi dati segnala un trend in aumento rispetto alle ultime stime dell'ACI, che nel 2011 si fermavano a quota 3 milioni. Il problema delle auto che circolano scoperte è strettamente legato alla crisi economica e al continuo rincaro dei prezzi RC Auto. Sono sempre di più i proprietari che non possono permettersi una polizza, arrivando così a rinunciarvi o, peggio, a procurarsene una falsa. Chi si mette alla guida in queste condizioni, oltre a rischiare di dover pagare di tasca propria i danni di un sinistro, è imputabile di reato. Per chi viene danneggiato c'è la possibilità di rivolgersi al fondo di garanzia per le vittime della strada. Ma quando ci sono solo danni a cose, l'intervento del fondo è limitato e la persona non potrà essere indennizzata. Allora, abbiamo in collegamento Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Municipale di Roma Capitale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per averci raggiunto. Intanto dico subito che la domanda di Antonio da Roma che ci ha posto prima della viabilità risponderemo tra poco, ma con lei volevo parlare appunto di questi rischi che si corrono, le sanzioni e quant'altro girando senza copertura assicurativa. 3,5 milioni di italiani lo fanno. Che cosa si rischia? Sì, dunque la normativa è contenuta nel codice della strada, nell'articolo 193, che prevede l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, quindi tutti i veicoli, lo sappiamo, i veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi che non circolino sui rotaie, hanno l'obbligo di essere assicurati. Questo è un obbligo che quindi grava su qualunque tipo di veicolo a motore. La sanzione che il codice della strada prevede per la mancata copertura assicurativa è una sanzione amministrativa pecuniaria che al momento, dopo l'ultimo aggiornamento biennale, prevede il pagamento in misura ridotta di una somma di 841 euro. E poi è prevista ovviamente come sanzione accessoria eventuale, dirò tra un attimo perché eventuale, la confisca del veicolo e quindi propedeuticamente in precedenza il sequestro del veicolo. Sequestro che può essere sequestro e confisca che possono essere evitati dall'interessato se questo corrisponde la somma per cui ha messo il pagamento in misura ridotta, cioè di 841 euro entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, e il pagamento di 6 mesi di copertura assicurativa. In queste condizioni il veicolo viene dissequestrato e restituito all'interessato dallo stesso organo di polizia stradale. Ci sono alcune diversità però da sottolineare. Se l'assicurazione è stata oggetto di contraffazione o di alterazione, ossia la mancata copertura assicurativa dipende da una contraffazione dei documenti assicurativi, allora questa facoltà di riottenere la disponibilità del veicolo pagando la somma relativa alla sanzione e i 6 mesi di assicurazione non c'è più, e in ogni caso la confisca diventa un provvedimento indefettibile, cioè non evitabile. Quindi laddove la mancata copertura assicurativa dipenda dall'alterazione dei documenti assicurativi, la confisca è sempre non evitabile. Grazie. Sì, grazie. È stato il quadro sintetico, diciamo, delle sanzioni del 193. È giustamente il quadro sintetico, ma insomma che dà un po' l'idea di cosa si rischia se si gira senza copertura assicurativa oppure con una copertura assicurativa così non proprio regolare. Io ringrazio Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Municipale di Roma, per queste chiarificazioni, per tutti quelli che sono all'ascolto. Torniamo alla domanda di Antonio da Roma, che ci ha parlato prima al telefono, era una questione abbastanza complicata. Emanuele Anzaghi, lei diceva bisognava forse denunciare subito. Eh sì, in questi casi è sempre buona norma, anzi direi obbligo da parte dell'assicurato, denunciare alla propria compagnia questo evento, anche se non ci sono delle conseguenze riscontrabili. In questo modo la compagnia avrebbe avuto una corretta documentazione e avrebbe appunto potuto respingere più facilmente le istanze di questa controparte. Poi si sa che l'altro problema è che la lunghezza e complessità dei procedimenti giudiziari in Italia porta probabilmente a far sì che spesso si paghino anche dei soggetti di questo tipo semplicemente per evitare procedimenti molto lunghi e molto costosi. E costosi sicuramente. Un altro ascoltatore, Giuseppe da Salerno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Senta, volevo prospettare un problema. Io un paio di mesi fa volevo acquistare una moto e ho fatto i vari controlli, ecco, le varie indagini anche su Segugio. E notavo con mio disappunto, oltre al fatto che sono dei prezzi proibitivi dalle nostre zone, perché è proprio pazzesco assicurare una moto, notavo che mettendo come professione disoccupato andavo a pagare più rispetto ad un impiegato, ad un qualsiasi lavoratore. E in questo momento mi sembra un poco... Certo. È una situazione un po' imbarazzante, ecco. Invece certo. Di venire incontro a chi ha perso il lavoro, si va al contrario, si va a penalizzarlo ancora di più. È un paradosso, certo. Grazie, vorrei Giuseppe. Capire come mai. Claudio De Mozzi, in effetti. Beh, in effetti certo, in effetti il mercato delle assicurazioni ha dimenticato in questi ultimi anni, direi decenni, l'aspetto sociale, l'aspetto mutualistico nella copertura RC auto obbligatoria per legge. Per cui questi che sembrano delle contraddizioni, questi aspetti che hanno una rilevanza sociale importante di penalizzare un disoccupato in confronto a un libero professionista, perché il disoccupato probabilmente ha più tempo forse per guidare la moto e quindi causare incidenti, o chissà per quale strana logica statistica dovrebbe pagare di più di un professionista, è proprio perché la funzione sociale e mutualistica nell'RC auto si è andata negli anni molto molto ridimensionando. Però, se mi permette, tornando al fatto dell'incidente, io sottolineerei una cosa. Dell'incidente che, di cui ci ha parlato Antonio, sì, da Roma, certo, sì. Certo, della richiesta poi pervenuta, sì. Eccetera. Sottolineerei una cosa, proprio l'autorevole Sole 24 Ore, nel 2011, in un articolo, scriveva decimale più, decimale meno, le truffe in Italia sono il 2,5% come media nazionale, in alcune zone si impennano al 10%, che è vero, sono quattro volte più della media nazionale, però vero è che corrisponde più o meno alla percentuale di frodi della vicina Inghilterra. Qual è la differenza? È che negli anni, probabilmente rispetto ad altre economie avanzate, il sistema assicurativo in Italia ha rinunciato a perseguire quelle frodi, cioè il radioascoltatore lamentava, ma perché hanno pagato? Io mi sono preso la briga di segnalare il tentativo di frode, di documentare il fatto che io non avevo provocato nessun danno, e poi vengo a scoprire, danno e beffa, che hanno pagato. Perché? Perché è più facile pagare un risarcimento e poi ripartirlo sulle tariffe di tutte le persone oneste, è più semplice rispetto a distinguere nettamente gli incidenti veri da quelli meno veri e perseguire i tentativi di frode. È più complicato e più costoso. Allora forse gli interventi legislativi e, perché no, un ritorno anche a quella funzione sociale a cui l'assicurazione tiene tanto da parte dei maggiori esponenti delle grandi imprese dovrebbe permettere un ritorno a una distinzione netta tra l'incidente vero e quello non vero. Quello non vero va perseguito e vedrà che i numeri poi torneranno normali. Ecco, da questo punto di vista, e termino, l'aver ridimensionato il numero degli agenti sul territorio e l'aver affidato a delle compagnie virtuali, cioè delle compagnie online, telefoniche, che non hanno presidio territoriale, un servizio essenziale come quello della RC Auto, certo non ha favorito questi aspetti del problema. Grazie De Mozzi, la ringrazio. E, tra poco siamo in chiusura, quindi chiedo ad Anzaghi un commento su questo, sulla funzione sociale, che mi sembra interessante. Anche i giovani, tra l'altro, in questo sono penalizzati. I giovani e i disoccupati, se uno fosse entrambe le cose allo stesso tempo, sarebbe fra i più penalizzati. Anche questa, così, questo spunto polemico sulle agenzie online. Ma brevemente, perché siamo in chiusura. Sulla funzione sociale è vero, c'è cioè una mutualità assicurativa. C'è anche da dire che se questa mutualità viene portata all'estremo, si finisce per penalizzare eccessivamente i consumatori che hanno comportamenti virtuosi. Quindi nel tempo, da quando le tariffe auto sono state liberalizzate, si è concesso alle compagnie di analizzare le statistiche che ritengono opportuno ed è su queste fare il prezzo. E quindi fra questi elementi c'è anche la professione, che mi rendo conto in questo momento è discriminante. Per quanto concerne le compagnie dirette rispetto alle compagnie tradizionali, non credo che il problema sia se la compagnia A sia una compagnia diretta o meno. Penso che il tema sia appunto la volontà di perseguire questo tipo di frodi, sia appunto perché è un'attività complessa, come giustamente veniva detto, e quindi ci può essere anche un disincentivo a perseguirle, sia perché i tempi, poi oggettivamente i costi sono molto lunghi. Grazie, la devo fermare perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. C'erano altri ascoltatori a cui chiedo scusa, erano in attesa. Il tema ovviamente resta molto caldo e Salva Denaio tornerà a occuparsene. Saluto e ringrazio in redazione Marco Lombardo, in regia Gianmarco Ferronato, da Valentina Furlanetto è tutto. Salva Danaio torna domani.